Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Quanto tempo passa al giorno davanti a internet? Tanto, almeno 5-6 ore. Un 10 ore. Come una droga questo internet. Non è una sostanza, ma può provocare dipendenza. All'inizio eccitazione, euforia, poi alienazione, fino alla reale incapacità di staccare gli occhi da quello schermo. I più colpiti sono loro, i giovani, figli di un'era dominata da chat, mail, blog, forum, videogiochi. Un vero mondo a parte per molti. Pensate che bello quando eravamo dominati, eravamo figli di un'era dominata dalle bombe a mano, dalle fucilate in testa, dalle sassate e dai bambini che andavano a lavorare in miniera. Ecco, questo è un servizio tipico di una rispettabilissima collega, però in cui si vede internet come se fossimo attraversati da una transeunte temporanea pestilenza che sta corrompendo i nostri ragazzi. Ma in realtà ormai internet non è disgiunto, staccato da quella che è la nostra vita quotidiana, dobbiamo farci una ragione, è inutile che su questo ci stracciamo le vesti. Questa mattina vorrei parlare proprio del rapporto tra i genitori, gli insegnanti e i nuovi bambini, quelli della nuova generazione, i nativi digitali, quelli per cui nascere significa entrare in un mondo in cui ci si colleghi tranquillamente, serenamente, come se fosse per noi stato ai tempi della nostra fanciullezza il giocare a nascondino o giocare a tombola. Detto questo, vi pongo il problema che questa mattina ci ha suscitato questa trasmissione. Una madre ci ha chiamato affranta, la bambina di 9 anni era andata a trovare una sua amichetta, è tornata turbata perché l'amichetta aveva acceso il computer e ha fatto vedere YouPorn. Ecco, questa signora ha detto: cosa devo fare io? In che tempi siamo? È cosa terribile. Non diamo consigli normalmente, abbiamo detto: signora, chiami all'altra madre e spieghi come mai una bambina di 9 anni ha a disposizione un computer e probabilmente nei preferiti o nella cronologia qualcuno è andato su YouPorn. Parli col padre, parli con la madre, ma non si ponga il problema. D'altronde è esattamente la stessa cosa che sua figlia fosse in epoca arcaica andata a un giardinetto, avesse incontrato uno di quei molestatori di bambini che sono nei giardinetti. E su questo forse bisogna in qualche maniera capire che il mondo è lievemente cambiato. 800 24 00 24, come la pensate voi? Qual è il vostro punto di vista? Perché oggi vi vorrei far parlare con una persona che in Italia è tra quelle che studia maggiormente questo problema, cioè il rapporto in cui i genitori stanno a porre con i nativi digitali. Paolo Ferri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a radioascoltatori. Allora, professor Paolo Ferri è ordinario di teoria tecnica, nuovi media e tecnologie per la didattica alla Facoltà di Scienza e Formazione alla Bicocca di Milano, dirige il LISP, il laboratorio informatico di sperimentazione pedagogica, un sacco di altre cose, ma fra un paio di giorni esce il suo nuovo libro, I Nuovi Bambini, come educare i figli all'uso della tecnologia senza diffidenze e paure, Burr Edizioni. Allora Paolo Ferri, che risposta avresti dato a questa madre, ci ha chiamato giustamente turbata, e che rapporto ha questo con la didattica legata alle, ma noi non le chiamiamo più nemmeno nuove tecnologie, legate all'informatica, legata agli strumenti che hanno a disposizione oggi i nativi digitali per comunicare e per comprendere il mondo? Ma certamente la mamma avrei detto di telefonare alla mamma dell'altra bambina e le avrei suggerito che sarebbe stato opportuno che attivasse il parental control sul computer a disposizione della bambina, cioè quel software che permette di sbloccare i siti. Ecco, almeno YouPorn non l'avrebbe visto. Ecco. No, YouPorn non l'avrebbe visto. È chiaro che lì il problema è un po' più grosso, perché evidentemente i genitori dell'altra bambina avevano in qualche modo... C'erano già stati, fatti loro, ma non devono lasciare a disposizione della bambina. No, esattamente, lì bisogna avere l'accortezza, ce ne sono di ottimi, negli antivirus stessi, quindi non costano, di attivare il parental control sul computer. Di ecco Paolo, però quando verrà il giorno che potremo parlare serenamente di internet, di interfaccia attraverso le macchine e l'informatica, senza prima dover fare questa premessa, Dio mio, i pericoli di internet, la pornografia, i bambini dove andranno a finire? Qui è difficile, è un problema culturale, soprattutto in Italia, molto grosso, nel senso che se la si guarda, noi abbiamo esposto i nostri figli per una ventina d'anni indiscriminatamente a 4 ore e mezza di televisione, compresa Ambra e le sue trasmissioni, e non ce ne siamo mai preoccupati. Ora che arriva uno strumento... Intanto che oggi è una impegnatissima attrice e interprete di pregnanti storie profondissime. E evidentemente, ma nelle sue, ai suoi esordi, ospite, che c'erano tante persone che hanno su di lei trovato motivi di ispirazione. Ecco, esattamente. E poi quando ci si trova di fronte a uno strumento che ha enormi potenzialità rispetto per esempio all'apprendimento, all'accesso a contenuti di qualità, ti porta il mondo in casa come internet, questa cosa genera un terrore, una paura, una sorta di panico sociale. E il libro che ho scritto cerca un po' di venire a capo, o quantomeno di offrire dei suggerimenti, non delle regole, perché di regole non ce ne sono. Io sono anche un padre di un bambino di 11 anni, cioè oltre che un ricercatore, e cerco di dare un po' di dritte in qualche modo ai genitori per evitare la tecnofobia o il panico tecnofobico e per mettere in condizione i bambini di navigare in maniera sicura in casa loro e di accedere alle enormi potenzialità che la rete offre. Carlo, buongiorno, primo ascoltatore, 800240024, come vi ponete nei confronti dei vostri figli nativi digitali? Carlo. Sì, io spiego il mio caso. Mio figlio per esempio è ormai a 2 anni che sta in condizioni che non riusciamo a farlo uscire di casa a fine settimana, perché ci stanno questi giochi online, per esempio si collega con il cugino e nessuno dei due si stacca, cioè diventa un mondo virtuale, vivono un mondo a parte. Virtuale, è un piattaforma multiplayer, si divertono a giocare come se giocassero chiusi, sì, in però, camera, sono a distanza. Sì, però il gioco è pericoloso perché diventa una dipendenza vera e propria e non si riesce a... cioè diventa violento, io provo a staccargli il modem ma non cioè, ci facciamo una vera e propria valutazione. Ma lei non riesce a imporre un minimo di suo punto di vista su, no, suo figlio, se così piccolo? Quanti anni ha suo figlio? 14 anni, è alto quanto me, 14 anni. Non è facile, non è un bambino, è un ragazzo già adolescente, e quindi cioè, bisognerebbe staccare, ma dopo se gli nascondo il modem mi fa le ripicche, diventa una cosa difficile, perché è una droga virtuale vera e propria. La droga virtuale, forse, evidentemente, lei quali alternative porrebbe al suo ragazzo? Chiamare la compagnia e far staccare su internet, però purtroppo l'internet ha delle cose buone e delle cose cattive allo stesso tempo, purtroppo. Fermola, Carlo, fermola. Stefano Morigi, buongiorno, faccio buongiorno, intervenire Gianluca. Un altro amico, autore. Stefano Morigi è uno storico, filosofo della scienza, autore di Connessi, beati quelli che sapranno pensare con le macchine, San Paolo Edizioni. Abbiamo subito preso il primo genitore preoccupato, giustamente, un figlio che teme che diventi Kikomori, in realtà è un ragazzo di 14 anni, gioca con multiplayer, perché si diverte molto più che probabilmente fare altre cose. Ecco, ancora però siamo sempre nello stesso binomio, come vedi. È la paura il primo elemento che media il rapporto con le macchine. Come mai? Per ragazzi di 14 anni non ci sarebbe questo problema. Dice, ma che vuoi papà? Mi diverto, lasciami fare. Verrà il momento e mi stancherò anche di questo probabilmente. Intanto ci sono dei sintomi, no, che danno forma a questa paura. Si continuano a chiamare queste tecnologie nuove tecnologie quando non lo sono più, e si continua a chiamare il mondo che si frequenta attraverso le sono tecnologie. Sono ventennali ormai. E invece c'è ancora la contrapposizione tra reale e virtuale. Prendiamo atto del fatto che il mondo è il mondo, reale e virtuale insieme, e dobbiamo imparare a abitarlo in quanto tale. Scaricare sullo strumento che ti consente di accedere a questa esperienza e a questo mondo a parte, come diceva l'ascoltatore, la colpa di una presunta, perché è presunta, dipendenza del figlio è forse la soluzione più comoda di chi non ha saputo trovare una soluzione educativa per abitare sensatamente questo mondo. Le ragioni di questa mancata soluzione educativa sono tante, partono dalla disinformazione e partono probabilmente da un cattivo uso delle tecnologie che hanno gli stessi genitori. Ancora dice, gli stacco il modem, come che ne so, ti nascondo il motore, la bicicletta, cioè... Gli stacco il modem e gli lascio il cellulare, è la stessa cosa. Evidentemente poi non sapendo che ormai la rete la trova abbastanza, ancora non a livelli come vorremmo, ma in giro si trova, poi non sarà quello il problema, va da un altro amico. Roberto, sentiamo Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno, sì, condivido praticamente quello che hanno detto i signori, io ho 65 anni, ho già anche nipotini. Diciamo che non è cambiato niente, le voglio dare un piccolo esempio. Guarda, non più tardi di ieri sera ero andato a trovare degli amici, ho parcheggiato la macchina lì, quando sono andato a riprendere la macchina, cioè robe che signori le facevamo anche noi in un'altra maniera con altri giornaletti, vedo dei 3 ragazzini dietro alle macchine che con lo smartphone che si stavano masturbando, probabilmente. Cioè, lei avrebbe avuto uno scorcio rarissimo, tra l'altro i ragazzini si masturbavano dietro la sua macchina con lo smartphone in mano. Sì, due macchine più avanti, mi sono sti tre ragazzini lì, ho detto ma che strano, cos'è che fanno? Poi guardavo che erano lì con lo smartphone, avranno avuto 10-12 anni questi ragazzini. Vabbè, la cosiddetta età delle pippe, scusi, ma è sempre stato così. Sì, infatti, una volta mi scusi, noi usavamo, che so io, Grand Hotel, adesso non è. Vabbè, è cambiato il supporto. Sì. È cambiata la forma. Ma poco a che fare internet con questo, invece del giornalino o del catalogo postal market c'hanno lo smartphone. Vabbè. Allora, io le dico una cosa, quello che a me fa più paura non è tanto la pornografia, che vabbè, è quella che è sempre stata. Mi fanno più paura certi siti dove si vedono certe cose brutali, quelle lì mi fanno più paura. Quali ad esempio? No, quali? Perché non, ma ce non ne sono, ma anche vedere filmati, guardi, oggi basta andare a cliccare e trova di tutto. Ma cosa cerca lei? Torture sadiche? Se no, come fa a trovarle? Ma guardi, lei basta che lei clicchi, non so io, brutal, per esempio, brutal. Roba del genere. Brutal, brutale, no? Vabbè, e sa più di me, vede. Sì, ma quelle sono cose che secondo me vanno un pochino più, possono dare uno shock forte, questi, non so se rendo l'idea. No, vabbè, non vorrei dare informazioni. La pipa ce la siamo fatta tutti, sì, meno sì, male, non ha mai fatto male a nessuno, e nessuno mai è diventato cieco. Fermo là, Paolo Ferri, come vedi, eravamo partiti per fare un'analisi seria su quello che è il rapporto con i nativi digitali, ma rivengono fuori sempre il solito discorso. L'hai visto uno strumento di trasgressione, di corruzione, internet fa male alle idiotrie, siamo sempre alle solite. Sì, siamo un po' alle solite, è chiaro che in realtà questo pregiudizio è difficile da sfatare, anche perché ultimamente la stampa sta in qualche modo pompando molto queste notizie di trasgressioni online e da questo punto di vista si perde un po' il vero senso della questione, cioè noi genitori tutti insieme, io compreso, dobbiamo renderci conto che i nostri bimbi in generale, anche i nostri figli preadolescenti, sono immersi in un mondo nuovo, usano nuove tecnologie per comunicare, non neanche tanto più nuove, ma per loro sono il pane quotidiano, per loro sono WhatsApp, è lo strumento di contatto. Ma ci sono nati loro, per loro è inscindibile la loro vita relazionale. Esatto, non sono neanche più nativi, sono nati digitali, cioè e noi dobbiamo imparare a trovare un modo per in primo luogo capire che per loro la vita si svolge in presenza, nella realtà concreta e anche nella realtà digitale, non virtuale ma digitale, e poi accompagnarli a un uso critico e sensato delle tecnologie a seconda della loro età. E non è una ricetta molto complessa, sembra la ricetta della nonna, cioè si tratta di fare esattamente la stessa cosa per il digitale che si fa quando si raccomanda al proprio figlio di attraversare sulle strisce e di guardare per bene a destra e a sinistra, e poi lo si fa provare tante volte, e poi ovviamente è molto più pericoloso attraversare il problema, professor Ferri, e poi ci fermo un attimo, devo dare le informazioni del traffico, è chi forma i genitori. Io sono molto più drastico in questo, secondo me il problema si risolverà in maniera anagrafica, quando queste persone qui non avranno più facoltà di esprimersi su altri esseri umani, cioè penseranno soltanto a vivere serenamente la loro vecchiaia. Quelli che abbiamo chiamato nativi digitali fino a 2-3 anni fa saranno loro genitori, avranno modo di, come mio padre mi spiegava come si mette in moto un motorino, una vespina e ci si va, e spiegheranno e dice guarda fai questo, fai quell'altro. Un secondo solo, ci fermiamo per il traffico. Poi riprendiamo. Melog. Cronache meridiane. Il re incontrastato di internet è il porno. Almeno il 30% del traffico sul web è diretto a siti a luci rosse, secondo Extreme Tech, sito che monitora la rete e che ha elaborato i dati estrapolati grazie a Google Double Click e Deep Planner, strumento che traccia il traffico web. Xvideos, leader nel settore, colleziona 4,4 miliardi di click al mese, 3 volte più della CNN. YouPorn arriva a oltre 2 miliardi. Inoltre, se sui siti di informazione gli utenti restano dai 3 ai 6 minuti, sulle pagine a luci rosse spendono molto più tempo, navigandoci dai 15 ai 20 minuti. Extreme Tech sottolinea come questi dati vadano moltiplicati per le centinaia di siti porno sparsi in rete che non hanno la potenza dei leader del 800 24 00 24. Stiamo parlando col professor Paolo Ferri, che si occupa di teoria tecnica dei nuovi media, del suo nuovo libro I nuovi bambini, come educare i figli all'uso della tecnologia senza diffidenze e paure, Gura Edizioni. Ma il senso del pubblico è subito, nasce subito con diffidenze e paure. Sentiamo Francesca, buongiorno. Oh, buongiorno, prima di tutto complimenti per la trasmissione. Io sono la nonna di due nipotini, maschietto di 8 anni e la femminuccia di 5 anni. Posseggo un iPad e, dato la vicinanza dei nostri appartamenti, mio figlio permette ai bambini unicamente al sabato pomeriggio, tipo dalle 3 fino all'ora di cena, e anche alla domenica, di guardare l'iPad. Adesso addirittura mio nipote gioca a calcio, per cui salta il sabato, riprende la domenica. È una regola che tiene mio figlio, io lo ammiro tantissimo, perché non sarei, giuro, capace di fare una cosa del genere. Invece i bambini ormai hanno accettato questa cosa, sì, protestano un po' quando li vengono a prendere per portarli su nel loro appartamento, però non più di tanto. Oddio, hanno 5-7 anni, hanno poco da protestare. Sì, 5-8, mi scusi dottor Nicoletti. Sì. Sì, ho capito, ha ragione, sono piccolo, però non è che... cioè il fatto, il principio di seguire una regola che poi possa essere seguito anche in età adulta, non lo so, forse è un'utopia la mia. Beh, ma gli adulti le regole se le pongono da soli, grazie a Dio, non hanno bisogno, i genitori, sì, a un certo punto abdicano il loro compito di onnipresenza. Paolo Ferri, come la pensi sulla regola del bambino di 5-7 anni di definire un orario di consultazione? Ma la penso purtroppo diversamente, nel senso che io credo che ragionevolmente, come anche sostengono recenti studi dell'Accademia delle Scienze francesi, cioè il digitale è qui per restare, non è neanche più tanto nuovo. È necessario che nei confronti del digitale, in qualche modo, i genitori, ma ce ne sono molti che lo fanno, e non vorrei qui gettare la croce addosso ai genitori che hanno già tante, come dire, incombenze educative e adesso devono affrontare anche questa che non conoscono tanto bene, ma i genitori devono mettersi nell'ottica di educare i figli a una corretta fruizione del digitale da quando i figli hanno 0 anni. Del resto i genitori, le mamme, pubblicano online le ecografie dei bambini prima che siano nati, quindi questi nati digitali hanno un'impronta digitale già prima di essere nati, e questa impronta digitale gliela generano i genitori. È l'inizio della cosiddetta ombra digitale, comincia allora, con la prima ecografia e finisce col certificato di morte che ci fa il comune. Esatto, e allora tanto più, siccome questi quando nascono vedono la mamma che usa lo smartphone per fare la spesa o che è collegata al computer, e vedono il papà che lavora e la mamma che lavorano col computer o col tablet, sarebbe veramente bizzarro proibire ai bambini quello che i genitori fanno quotidianamente. Quello che va fatto invece è stare con loro in internet, stare con loro con gli strumenti e fornirgli quelle regole di buon senso che gli permettano di orientarsi nel mondo della rete, che poi in realtà è il doppio virtuale, o meglio digitale, del mondo reale, e quindi sono le stesse regole che gli diamo quando gli diciamo appunto cosa fare a scuola, come comportarsi. Solo partendo dalle prime età, cioè solo partendo da piccoli, si può generare quel rapporto anche di confidenza, di complicità con gli schermi digitali, bambini e genitori, che permetta poi per esempio di evitare casi estremi come quello che citava l'ascoltatore all'inizio. Cioè è evidente che... Sì, che ci sembra un po' fantasioso, onestamente. Ci siamo parlati nella pausa, vedere dei ragazzini con lo smartphone in mano, non è mai accaduto a nessuno dei presenti, perlomeno in questo studio. Poi, sì, ecco, cioè, sembra un po' macchinosa un po' la cosa. Sì. Poi non sappiamo se è vero o no, però nello stesso momento è chiaro che solo con un'educazione digitale che aiuti i ragazzi a capire le potenzialità, i rischi, ma soprattutto le potenzialità di questo strumento per l'apprendimento, per la conoscenza, per la relazione con i pari, si può fare in modo che si prevengano anche tutta una serie di fenomeni che peraltro sono naturali, perché una naturale trasgressione a 14 anni l'abbiamo fatta tutti, guardando la certi di giornali, appunto. Sì, sì, ma questo è chiaro. Terra, e quello lo farà ovviamente anche mio figlio, ma questo non lo considero anomalo. Considero anomalo non permettere ai propri figli di accedere a una risorsa così potente come. Sentiamo internet. Giuseppe un attimo. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, allora io volevo segnalare anzitutto che sono un operatore informatico, quindi ci sto un po' dentro a queste cose. Mi preme segnalare che non credo che la pericolosità possa venire tanto dai siti pornografici, bensì dai social network, in quanto. Sì, perché poi è un punto di vista anni 90 questo, di pensare la pornografia in rete, secondo me. Infatti credo che se uno voglia proteggere i propri figli possa farlo indipendentemente dalla esistenza o meno del web, quindi secondo me è un po' superato come discorso. Invece sull'utilizzo dei social network, che molto spesso sono anche sempre più presenti sui telefonini, questo è un problema, diciamo, di difficile controllo da parte delle famiglie, oltre che secondo me c'è già un vuoto normativo noto, un vuoto proprio legislativo in merito a queste cose. Fermo un attimo, Stefano Morigeri, non riusciamo a uscire, anche diciamo l'operatore informatico dal suo punto di vista dice, ma il pericolo segnala delle aree di pericolo. Sì, ma io mi sto chiedendo perché ci chiediamo solo dei pericoli e non delle opportunità? Questo è sintomatico. Se noi imparassimo a capire quali sono le vere opportunità, avremmo anche la migliore strategia per contenere i rischi e i cosiddetti pericoli. Grazie Stefano Morigi, grazie Paolo Ferri, alla prossima.